sé yo, viene lento divagar una música brutal, encendió nuestra pasión. Melog 2.0 2.0 di Gianluca Nicoletti. Ahimè, triste notizia, avrò un elemento in meno in questo programma. Stanno chiudendo Facebook nei pubblici uffici per paura che poi gli impiegati fannulloni perdano il loro tempo in derive fantastiche, in illusioni, in tentativi di connessioni, in uscite dal mondo. Ahimè, visto che ci sarà questa flessione di utenti da Facebook, ricordate che ancora comunque vi sto seguendo. Già questa mattina ho messo nella pagina che ormai tutti conoscono il tema del giorno. Ho scritto: il telequiz alimenta il nostro sogno di benessere improvviso, visto che le più moderne macchine di illusione vengono censurate, frustrate, bloccate, rivolgiamoci alla più vecchia, alla più antica, alla televisione. La televisione è un momento così particolarmente difficile, così conclamato e così vissuto e così incarnato nella sua difficoltà, soprattutto lo spettro del problema economico ci colpisce ogni giorno. Vuoi per una spiccata tendenza ad aumentare emotivamente quelli che sono i problemi reali, vuoi anche per dei reali e concreti problemi, tutti abbiamo sempre paura del futuro e la televisione in questo momento sembra ritrovare la sua antica vena di grande ispiratrice del nostro immaginario, di grande saponificatrice dei nostri sogni più perversi, nel senso che li ammanta di profumate essenze. La televisione ha una sua area privilegiata che riempie addirittura, almeno in Italia, 11 ore quotidiane del palinsesto dedicata appunto alla grande fabbrica delle illusioni, il telequiz. Domanda: mi dica il nome, l'età, l'altezza del protagonista del primo spot pubblicitario girato negli Stati Uniti. 50.000 euro, mezzo miliardo delle vecchie lire per Simone. Quale di questi attori non ha mai interpretato il ruolo di Zorro? Cos'è la borragine? Che ne so. A, un'alga marina. B, una pianta aromatica. C, una radice velenosa. Prego. Eccomi qua. È inutile che ve lo spieghi perché tanto lo sapete già. Adesso sta solamente cosa manca? Manca sapere il numero esatto di questi fagioli che ormai sembrano diventati così brillanti per quanto costano. 1.250.000 lire. Vogliamo partire con le telefonate? Un po' la storia delle illusioni, desideri, delle ambizioni del nostro paese passa attraverso la storia del telequiz televisivo, oggi poi si chiama game show, ma cambia poco. È sempre la televisione che mostra dei concorrenti che sono come degli eroi in un'arena, che vengono ammaestrati, guidati, stimolati da un conduttore carismatico che devono mostrare dei talenti a volte in territori del sapere piuttosto improbabili, ma l'importante è che tutti incarnino la nostra piccola e modesta possibilità di eccellere attraverso la cultura delle nozioni, cultura nel senso che le coltiviamo. Ogni giorno ognuno di noi è esperto nello scaccolamento, è esperto nella conta delle formiche, è esperto nel collezionismo dei biglietti ferroviari, ognuno di noi ha delle piccole manie che non sono altro che venga improvvisamente una sorta di benefica deità che queste velleità, queste manie le trasformi in un talento che ci dà gloria, ricchezza, centralità, visibilità, tutto ciò che la televisione promette e spesso per qualcuno mantiene. Questa storia passa attraverso dei momenti fatidici, dal Mike Buongiorno di Lascia Raddoppia, di cui poi parleremo, che è stato il primo a creare e concretizzare questo sogno tipicamente e radicalmente, visceralmente, proprio al nostro paese, che tutti ce la possono fare con un guizzo di intelligenza e di creatività e di capacità di ingegno. Quando Umberto Eco nel 61, nel suo diario minimo, tracciò la fenomenologia di Mike Buongiorno, fece un gesto per i tempi estremamente trasgressivo, ma in realtà un quintuplo salto mortale per giocare, ironizzare sull'ironia, sulla ignoranza che stava crescendo, dicendo attraverso questo mezzo che Eco, che pur essendo stato funzionario della televisione di Stato, guardava con estremo distacco, estremo senso di schifo, perché giustamente lui, un intellettuale, si era coltivato e che aveva analizzato, approfondito, reinterpretato tutte le fonti possibili, vedere il nozionismo come trionfo di cifre della cultura nazionale lo faceva inorridire. Mike Buongiorno, questa persona che non si vergogna di essere ignorante e non prova il bisogno di istruirsi, dice allora nel 61 Umberto Eco. Beh, in realtà fra Eco e Mike Buongiorno dobbiamo dire che ha vinto Mike Buongiorno. L'idea della non vergogna dell'ignoranza ha trionfato e ha celebrato quello che è il quiz televisivo. E il quiz televisivo è diventato anche materia di nuovi personaggi che da punti di vista diversi comunque attingono e si allattano a grande mucca televisiva. Ieri il Corriere della Sera ha fatto un interessante paginone dedicato appunto al gusto, alla mania, alla malattia del telequiz, firma di Chiara Maffioletti, e così diventerai milionario, la grande illusione di quiz in TV. Da cosa nasce questa inchiesta? Nasce da uno dei soliti sondaggi fatto appunto su quanto possa essere attraente ma diseducativa e pericolosa la televisione e i telequiz. Se la televisione trasmette oltre 11 ore di programmi dedicati appunto al quiz, quindi alla promessa di denaro facile, alla promessa di poter diventare campioni in maniera molto semplice, offrendo cifre sproporzionate. Canale 5 mette in palio oltre 1 milione di euro al giorno, Rai 1 più di 800.000. Diciamo che di fronte a queste cifre, certo, tremano i polsi. La cosa che mi lascia perplesso è che chi ha fatto questo studio, puntando il dito contro, ancora una volta, contro la cattiva televisione, operazione conviene sempre fare, porta sempre bene dire che la televisione è cattiva, che la televisione è diseducativa, è un centro studi che si chiama Comunicazione per Bene. Oddio, come si fa a chiamare comunicazione per bene? Questo termine comunicare per bene mi fa venire in mente qualcosa di lontano, da libro cuore. La comunicazione, che è la perversione e la gloria della contemporaneità, non si sposa con la parola per bene. Per bene è un termine desueto, un termine antico, è un termine che sa di muffo, è un termine in sé negativo. La comunicazione, che nella sua ipervalutazione, l'esagerazione, la sua considerazione, non può mai essere per bene. È ammesso che possa avere alcune parvenze, alcuni barlumi di eticità, mai bollarla con la parola per bene. Ma evidentemente io non guardo oltre come guardano i signori di comunicazione per bene, che riescono a fare della televisione una così perfetta immagine di luogo perverso in cui si alimentano tutte le peggiori ambizioni dell'umanità. Il duca Gagliardo della Forcoletta, dei Prati di Castelrotondo. Buonasera, duca. Buonasera. E lei chi è? Duca, guardi che ci deve essere un errore. È all'ultima domanda che ci si presenta con l'esperto. No, no, signor Mike, non è l'esperto. Questo è il mio domestico. È cretino, ma è il mio domestico. È vero, Camillo? Sì, signore. Sì, signore. Beh, veramente non mi risulta che il regolamento accetti i maggiordomi di coloro che partecipano alla trasmissione. Tuttavia, il notaio non protesta, quindi possiamo procedere. Grazie. Allora, duca, dica, quale categoria ha scelto? Ippica. Con particolare riferimento a qualche determinato periodo? No, con riferimento a tutte le corse di cavalli che si sono svolte dall'epoca degli antichi persiani a tutt'oggi. Perbacco, fino ad oggi. Fino ad oggi pomeriggio. 800 24 00 24. Naturalmente la domanda la pongo al nostro pubblico, che sarà in parte telespettatore di Tele Quiz, in parte da casa, come già molti mi stanno scrivendo su Facebook. Io faccio parte di quella fetta di pubblico televisivo che da casa risponde a tutte le domande, però non ha mai il coraggio di partecipare, mai il coraggio poi di fare il grande passo, di superare lo Stargate e entrare dentro la televisione. Beh, nel 58 avete sentito, già il cinema celebrava il telequiz televisivo come una possibile uscita dalla propria miserrima situazione. Totò, il duca della Forcoletta, che presta il fianco alla famosa battuta duca dica dica duca, connotata e legata allo spirito da un certo punto di vista velletario, ma allo stesso tempo antico, ancorato in mucillaggine e limacciosità proprie del tempo, assimilabile al termine per bene. Ecco, il duca della Forcoletta che dice duca dica e che va a fare il grande sacrificio di porre come olocausto della sua perversa passione per i cavalli il fatto di esibirsi in televisione per risolvere un problema matrimoniale a una povera orfanella disgraziata, e poi mi pare sua figlia naturale, beh, era la rappresentazione di quell'Italia per bene che sperava nel telequiz di uscire dalla sua miserrima situazione, non soltanto economica, ma soprattutto di apertura di idee. Signorina Campagnoli, ci porti la busta con le prime 5 domande. Con queste domande speriamo di portarla al primo gettone d'oro. Speriamo. Signorina. Ci arriva. Sì, mi spiace, ma il mio posto vicino al notaio. Ma stia qui con noi, così carina, porta fortuna. A me mi porta fortuna, sa. Capisco, Duca, ma il notaio non lo permette, no? Ah, questi notai, ah. Duca, guardi che lei ha scelto Ittica, non... Beh, cosa vuole, donne, cavalli, sa, a prescindere. Allora, per 2500 lire, mi sa dire in che anno furono messe in funzione negli ippodromi italiani le macchine di partenza a scatto elettrico? 15 maggio del 1927, alle ore 3 del pomeriggio. Era il 56 e come oggi nei programmi di Gerry Scott, nei programmi dei nuovi contemporanei telequiz televisivi che oggi si chiamano game show, che sono tantissimi, sul Corriere della Sera c'è una tabellina di quanto ogni giorno da Occhio alla Spesa, Prova del Cuoco, Feste Italiane, Eredità su Rai 1, dico due, oppure su Tre Strisce di Isola dei Famosi su Rai 2, che non è proprio un game show, è un reality show, ma anche lì si vincono soldi, anche lì è dilatata la possibilità di guadagnare denaro mettendo in gioco non tanto alcuni miserrimi talenti acquisiti sulla settimana enigmistica o sui rotocalchi leggiucchiati dal barbiere, ma semplicemente mettendo in gioco la propria popolazione, polarità disfatta o la propria carne frollata. Ho visto ieri sera una delle fasi finali dell'Isola dei Famosi, era meraviglioso, in cui la contessa De Blanc, con un gesto da perfida aristocratica, toglie la maglietta al povero bidello che rimane nudo, scheletrito, come una sorta di Lazzaro appena uscito dal sepolcro, e dice: non è stato un bel gesto. Beh, anche quelli mettono in gioco un loro talento. Il bidello bananofilo mette in gioco la sua perversa ostinazione nell'essere un personaggio deprecabile, ma allo stesso tempo che ispira tenerezza a tutte le appassionate di bassi fondi, di sottofondi, di miserie umane. La contessa, nella fase ultima più acuta del suo disfacimento fisico, fa quell'ultimo gesto di cattiveria, strappa il tozzo di pane di bocca al povero cane bastardino. È un gesto meraviglioso. Beh, anche quello fa parte della possibilità di guadagnare facilmente merito, denaro e soldi. Duca? Dica! Ecco la domanda finale, la domanda chiave per il premio da 5 milioni e 120 mila lire. Stia bene attento dunque. Qual è il nome del cavallo che vinse il premio di Buenos Aires nel 1929? Ha capito la domanda, Duca? Via il cronometro. Non ce la faccio. Come ha detto? Rinuncio. Bravissimo, la risposta è esatta, il nome del cavallo è Rinuncio. Congratulazioni, un applauso per Duca che ha vinto il nostro premio da 5 milioni e 120 mila lire. Venga Duca, venga fuori a prendere il suo applauso. Venga fuori, guardi, ci sono tutti i fotografi che l'attendono. Prima devo fare una dichiarazione. In caso di mia morte, cioè in caso che io dovessi morire, voglio che il notaio raccolga la mia ultima volontà, e cioè il premio di 5 milioni e 120 mila lire che sia interamente versato alla signorina Elsa Marini, che è mia figlia. Il beau geste, la figlia può finalmente sposarsi, visto che il fidanzato, anche lui aveva partecipato al telequiz, anche lui, e lui aveva fallito in realtà. Totò mette in gioco, e così si riscatta dalla sua vile passione di giocatore di cavalli, quindi c'è un lieto finale. Ma avete visto poi negli intramezzi di questo film che racconta la televisione diventa già materia di narrativa cinematografica, quindi c'è già agli inizi, agli albori, da 2 anni apparsa la televisione in Italia, quando ci fu il film Totò lascia raddoppia, dimostra la sua centralità nel racconto italiano, tanto più che poi il racconto televisivo, come accade appunto ai tempi nostri, supererà il racconto della realtà. La televisione in sé diventa un mondo a parte, non è più uno strumento di racconto, un medium che evoca un mondo esistito in precedenza, ma diventa un mondo a sé. La televisione rappresenta un mondo parallelo. Beh, la valletta, questa condizione subordinata, mesta e allo stesso tempo di specchiata e integerrima virtù femminile, oggi è lievemente diverso. Poi negli anni le vallette hanno rappresentato ciò che in realtà doveva rappresentare, doveva essere la pietra di paragone perversa a cui nessuno doveva mai assimilarsi, ma doveva rappresentare un punto di arrivo. Beh, tutto questo è il telequiz. 800240024, qual è l'esperienza vostra personale che avete avuto oltre a quella di spettatori? Mi scrive Emanuela e mi racconta qualcosa che ha a che fare con un'Italia provinciale, non proprio legata alla televisione, ma con le ricadute concrete del vorrei ma non posso che si faceva nei paesi imitando la grande televisione. Parla di una riffa paesana in cui il primo premio era una grande bambola con ampio e barocco vestito, pieno di pizzi, etrine e falpalà, una capigliatura riccioluta che la vede amora, bionda, rossa, a seconda del gusto dell'unico vincitore. E racconta quando lei bambina partecipa a questa riffa con nel cuore il lascio raddoppio al telequiz televisivo. Negli anni 60 queste bambolone schifose, vestite molte volte da spagnola, servivano a essere messe sedute sul talamo matrimoniale dei neosposi. Non si sa perché. Si regalava agli sposi una grande bambola schifosa, soprattutto spagnola, perché a quei tempi i viaggi in nozze si facevano in Spagna. Era vicina, economica, e avevano una lingua che assomigliava all'italiano, quindi andavano in Spagna gli sposini, fossero essi di campagna, di città, di periferia, e tornavano con questa grande bambolona che mettevano seduta sul talamo. Non si sa, muto testimone, imbarazzante osservatore dei loro casti connubi, eppure la bambolona stava sul letto. Beh, ho detto che voi potreste darmi delle testimonianze di non vincitori, di perdenti del quiz televisivo, di pavidi concorrenti che non hanno mai avuto il coraggio di presentarsi, ma oggi vi faremo sentire qualcuno che ha vinto. Vediamo la ruota del campione Sallustio! Allora, mettiti la cuffia, Sallustio, sì. Benvenuto, bentornato. Sì. Il destino di un campione è prima o poi trovare uno più forte di lui, ma intanto lui va avanti. Quanto hai vinto finora? In questa edizione 75. Mannaggia, ma dove li metti? In banca? Sì, ovviamente. Lavora in banca. Si parte da 500.000 sì. euro, ogni errore, ogni esitazione vale 20.000. Procediamo. Sì. 440.000 euro a tua disposizione, ma anche del tuo sfidante per la ruota finale. Sallustio, mi consente, se ha una sì. piccola... La dedichiamo a Chiara, la mia figlia che ha compiuto 2 anni giovedì, ed è la mitica, quella che sì. piace di più a tutti e 2 bambini, ad Antonio e Chiara, uno di Ranocchi, nello stagno, è pronta già a una viola, un contrabbasso e un violino per suonare. Ma che bello quel concerto, la bambina ascolterà e se batterà le mani anche il pubblico lo fa. Questa è bella. Ferdinando Sallustio, ma come le venne in mente di cantare l'orribile canzoncina? Beh, dottor Piccoletti, io intanto la saluto e la ringrazio di avermi invitato. Io la seguo da moltissimo tempo, sia per televisione che per radio. Vengo alla sua domanda. La canzoncina sarà orribile, ma era mi ha strappato un sorriso perché è dedicata alla mia bambina di... Ma gliel'hanno suggerito gli autori? Una sua... Non ha ancora compiuto 3 anni. No, in realtà quello era un... La sua felice iniziativa. Era un fatto estremamente privato. Io tamburellavo queste filastrocche sulla ruota prima di affrontare la prova finale e l'assistente di studio disse: ma chi le ha scritte queste? Cioè, veramente le ho scritte io, e lo disse a Gerry Scotti. Gerry Scotti me ne fece cantare una così in maniera proditoria, inaspettata, e dopodiché disse: daremo a tuo figlio il numero del telefono azzurro. Poi una delle autrici della trasmissione disse: queste cose allucinanti piacciono molto, se ne hai delle altre falle. E io chiamai mia moglie a casa e dissi: ma perché un fatto intimo deve diventare televisivo? Disse: almeno non lo dobbiamo coprire con i bip, come le parolacce nei reality. Ma senta, Ferdinando Sallustio, si interrompa, prego, trattenga un attimo la sua facondia, che la presento agli ospiti prima di dare la linea all'informazione sulla borsa. Avete sentito, abbiamo in studio un concorrente, un reperto umano, colui che ha partecipato a un telequiz, Ferdinando Sallustio, campione di Passaparola, che ha trasformato la sua passione e la sua perversione in una professione, perché è diventato scrittore, ha scritto Un popolo di concorrenti, Edizioni Bompiani, e tra un istante ci dirà tutto quello che accade al di là dello schermo del nostro televisore, il telequiz visto da un protagonista. Ecco, riprendiamo a parlare di telequiz come luogo dell'immaginario, luogo da cui attingere conferma delle proprie qualità intellettuali, del proprio livello culturale, della propria conoscenza della contemporaneità che stiamo vivendo, e allo stesso tempo vivere felici della speranza delle vincite altrui. Si vincono a volte 1 milione, 2 milioni di euro al giorno complessivamente in tutta televisione italiana, e da casa siamo felici. È come il poveretto che inzuppa il tozzo di pane duro con il profumo dell'arrosto del ricco e mangia felice quel pane imbevuto d'arrosto, finché non viene il ricco a dirgli pagami il fumo dell'arrosto. E poi c'è la nota parabola che verrà pagato con il tintinnio delle monete per la salomonica saggezza. Beh, oggi siamo qui tutti felici a godere del profumo dell'arrosto altrui, e qualcuno che ha affondato le zanne invece nel sugo, nella carne di quell'arrosto, è Ferdinando Sallustio, che ho al telefono. Ricordo, campione di Passaparola, autore di Un popolo di concorrenti, edizioni Bompiani. Signor Sallustio, ancora in linea? Sì. Sì, eccomi. Ecco, lei ha trasformato un momento della sua vita in una profonda vena storico-letteraria e raccontato la storia degli italiani nel telequiz. Passiamo però alla sua esperienza. Lei quanto tempo è stato impegnato in un telequiz? Beh, io ho fatto 115 puntate di Passaparola, che è la trasmissione che avete di cui prima avete mandato in onda un frammento audio. Tra la prima partecipazione e le varie sfide che sono stati fatti tra i vari campioni, tra il 2003 e l'inizio di quest'anno, il 2008. Quindi è fresco di abbastanza parvenza televisiva. Sì. Ecco, ha cambiato la sua vita dal punto di vista economico essere un campione telequiz? Perché tutti si aspettano che chi va lì poi torna a casa con sacchi di dobloni d'oro. Sì, più che i dobloni sono gettoni, e diciamo che, come, inutile nasconderlo, perché sarà il affondare il tozzo di pane nel sugo del ricco, sarà uscire del fumo, fuori, non dal, del sugo, il sugo già è qualcosa di concreto, è il fumo. Sì, sarà, però voglio dire, il denaro, come tutti sappiamo, è misura della nostra vita. E certo, avercelo. Certamente però non è il fine della nostra vita. Però, beh, un po' sì, come, mentirei, sarei ipocrita se dicessi che vincere, che la vincita non mi ha fatto comodo. Quanto ha messo al cantuccio lei, signor Sallustio? 350.000 euro lordi, che sono 280.000 euro netti. Sì, che non è manco la cifra che cambia la vita, diciamo la verità. No, non fino a un certo punto, perché può cambiare la vita anche degli altri, cioè può servire per esempio a ristrutturare e rimettere a posto l'edicola e libreria dei miei genitori, che è stata l'ambiente nel quale io ho appreso. Rende possibile un piccolo sogno della vita, ecco, diciamo. Sì, alcuni piccoli sogni, tipo quello di non avere la preoccupazione del mutuo della casa, quello di poter mettere da parte qualcosa per i propri figli per quando saranno grandi, insomma, sogni piccolo borghesi, ma tutto sommato sogni condivisi. Sono i nostri, li condividiamo tutti, cioè certo. Nessuno di noi vorrebbe il deposito di Paperoni per tuffarcisi come un pesce baleno. Senta, ma i gettoni d'oro come sono fatti? Quanto sono grandi? Sono gettoni d'oro, dipende dalle dimensioni, dai 50 euro fino ai 500, sono di oro 750, perché potrebbero altrimenti cadere in mani incaute, invece devono essere fusi e convertiti nel vile denaro da un apposito banco metallo. Ma perché non danno i soldi? Perché c'è un regolamento del Ministero delle Attività Produttive essere gettoni, che dice che altrimenti sarebbe un gioco d'azzardo. Quindi è un trucco. Si trova l'escamotage per dire un pagamento in natura, sarà anche gettoni d'oro, ahimè sono natura. E glielo danno in un sacchetto i gettoni, con dove glieli danno? Proprio il sacchettino a casa, che a quel punto veramente sembra. Mi spiega una cosa, signor Sallustio, la trasferta dal luogo del telequiz a casa sua con il sacchetto dei gettoni, lei va in aeroporto oppure va con il treno, con l'automobile? No, poi arriva un apposito corriere con i gettoni da sole a specchio e arma di ordinanza a consegnarli poi a casa entro 6 mesi. Questo non lo sapevo. Dunque lei poi finalmente, devo spiegare i passaggi proprio tattili della vincita, arriva a casa sua il sacchetto con i gettoni. E lei li apre nel salotto, li toccate, li mettete nella vasca da bagno, ci fate il bagno, ci giocate, sì. E dopo che ci fate? E dopo aver sperimentato questo in sedicesimo, questo tocco di remida. Perché si fa, sì, se li ha tirati in testa un po'. Sì. La doccia con i gettoni l'avete fatta, lei sua moglie? La doccia no, il bagno sì, ma la doccia ancora no. Ce l'ha messa nella vasca, ci è andato dentro con la signora? Esatto, tutta la famiglia. Beh, bellissimo. Tutti e quattro, compresi i due bambini. Beh, questo è come Paperone. Questo varrebbe già questo... la pena di partecipare. E poi cosa fanno? La differenza è che Paperone non ha una famiglia, anzi, c'è qualche problemino. Sì, c'è sono nipote. Più fortunato io. Ecco, sono venuti dei parenti a chiedere a battere cassa quando non ha saputo cosa dice? Dei parenti no, ma degli estranei sì, perché ora fuori dallo scherzo e il fatto di aver avuto una visibilità televisiva per tanto tempo ha spinto numerosissime persone assolutamente sconosciute, con le più varie motivazioni o a volte con i più vari pretesti, a chiamare casa mia a qualsiasi ora del giorno e anche della notte per chiedere che io intervenissi in situazioni che potevano essere di bisogno certo o di bisogno proprio. Cioè volevano annusare il gettone probabile. Anche loro, chiaramente. Sì, io ciò che ho fatto di concreto me lo tengo per me, però posso dire che c'era chi mi chiedeva soldi perché dice mio figlio ha avuto un accertamento fiscale di 20.000 euro e non li può pagare. Beh, oppure devo costruire un monumento agli eroi del mare, mi mandi un contributo e così via. Ma bello perché viene fuori la faccia come il culo degli italiani in queste situazioni. Sì. Senta, signor Sallusto, poi questi gettoni, una volta che ci ha fatto tutte le possibili peripezie erotiche, li porta in banca, li fonde lei con il crogiolo a casa, come funziona? Ecco, è difficile trovare un crogiolo a casa, diciamo che li ho fatti fondere da un'apposita ditta. E dove si trova il fonditore di gettoni? No? Sì, ci sono dei banchi metalli che fondono loro per gli orafi e che... L'ha cercati sulle pagine gialle, come ha fatto? No, c'era... Noi ex campioni di passaparola, per fortuna, non eravamo rivali tra noi, ma eravamo amici. Ah, è come una setta, quindi vi scambiate... No, una setta, no, come diciamo un'associazione basata sul file telequinto, sul mutuo soccorso, però siamo tanto amici tra di noi e quindi chi mi aveva preceduto in questa aveva un fonditore di fiducia, diciamo. Aveva un fonditore di fiducia, in effetti era estremamente affidabile. E lei è uscito di casa con il malloppo, non aveva paura? No, è venuto un altro vigilante con appositi, con occhiali a specchio diversi dal precedente e se li ha portati. E lei l'ha affidato al vigilante. Abbiamo organizzato una manifestazione di saluto di questi gettoni e poi anche di giubilo per l'arrivo del bonifico sull'apposito conto bancario. Ah, quindi il fonditore poi vi accredita semplicemente, non è che vedete il lingotto quando andate in banca? No. Quindi c'è questo rituale da passare, passato questo rituale, finalmente dopo tutte le peripezie, i divertimenti, le tattili sensazioni, l'oro diventa soldo e quindi è come un guadagno qualsiasi. Bisogna pagarci le tasse? Eh sì, 20%. 20%. Per cui 350.000 euro sono 280, ma non mi lamento. No. Ecco. Sono soggetti a tassazione separata, tra l'altro non si combinano con il resto del reddito e quindi mi pare una tassazione più che equa. Quindi tutto sommato è conveniente riuscire a partecipare a un quiz se uno ha qualcosa da dire. Sì, ma se la mia vicenda personale può essere in qualche modo di esempio, io sono un campione di normalità. Cioè, ritengo che ci siano state anche nelle sfide che io ho sostenuto delle persone molto più brave e più preparate di me, che però magari in quel momento venivano prese dall'ansia da prestazione, dall'impossibilità. Ne abbiamo parlato ieri abbiamo parlato del Viagra, ma non esiste un Viagra per supplire all'ansia da prestazione di concorrente di telequiz. Però esiste un potente Viagra che può essere utile anche in quell'altro tipo. Ah, c'è il doping del concorrente, ce lo dico. Stessi. Ecco. Ma prendete sostanze psicotrope, qualcosa per aiutarvi prima del... No, posso dire che l'unico doping che avevo era la macedonia di frutta preparata da mia madre, che ha efficacia sotto questo punto di vista fin dagli esami di terza media. Era corretta, era... Senta, sì, dunque, poi l'ha denunciato. Come le è venuto in mente di scriverci un libro su questa cosa qua? Come si è documentato? Perché adesso lei è stato meraviglioso nel raccontare quello che tutti volevamo sapere, cosa accade quando si vince. Siamo spinti oltre la nostra passione voyeuristica, oltre quello che si vede in televisione. Lei poi ha scritto un libro, quindi come si è documentato e cosa ha scritto in questo libro? Io ritengo che questo sia il vero e unico esempio di reality show. Cioè, si prendono persone come me che stanno nello sportello di una banca e li si manda in TV a rispondere sulla scrittura degli incas e poi ritorniamo a casa con i piedi per terra senza per questo cercare... Qual era la sua specialità, la sua materia? Passaparola era su qualsiasi materia, potevano fare domande su qualsiasi argomento dando soltanto l'iniziale della risposta. Lei come ha fatto a diventare così enciclopedico? Leggendo l'edicola dei genitori? Come... Esattamente, può sembrare una... No, ci credo. Però voglio dire, anche con robusto e costituito... Quanti anni ha fatto di edicola lei? Quanti anni di edicola, signor Sallusto? In questo momento posso vantare 35 anni di edicola, visto che ne ho 43 e che sto lì dentro da quando ne avevo 8. E a quante lauree corrisponde, secondo lei, sommariamente? Vale, ma forse alla pari della laurea che ho effettivamente preso poi negli anni Ottanta del secolo scorso, dei corsi di specializzazione che ho sostenuto. Quindi lei è forte delle sue letture sì. Da edicolante, che leggeva di tutto praticamente? Da edicolante, da studente di liceo, da studente di università, nonché cioè, di lettore, di onnivoro, di vario genere, alla fine ho pensato che io guardavo Rischia Tutto fin da bambino, vedevo i programmi televisivi, pensavo potesse essere... Senta, fra i concorrenti storici, signor Sallusti, sì. Fra i concorrenti storici di cui lei sicuramente sarà occupato, chi è il suo nome ispiratore, il suo maestro di vita, colui che lei, di cui ha un altarino nel suo comodino ogni sera brucia incenso? Vabbè, ce ne sono forse più di uno. Il massimo di nome e di fatto era Massimo Inardi. Inardi, però dicevano che lui avesse poteri parapsicologici, Inardi. Sì, però era, in realtà era un potere che derivava dalla sua profondissima... Ma era vero secondo lei oppure era tutta una messa in scena come Giucca Scasella? Si concentrava e sembrava... era una persona che credeva, che nella parapsicologia ci credeva e che la praticava e che magari per alcuni non tocca a noi in questo punto andare a vedere quale sia la veridicità dei fenomeni paranormali. Mi ha fatto molto piacere per esempio ricevere per questo libro una lettera autografa da Gianluigi Mariannini che negli anni 50 impressionò l'Italia con questo suo fare da dandy, che ha fatto un faustiano patto col diavolo che ancora persiste identico come era negli anni 50, quindi evidentemente fare il telequiz preserva. Ma mentre io saluto ringrazio il signor Sallustio, do subito il testimone per un istante prima di dare la linea all'informazione sul traffico a un altro concorrente, Davide, che ha partecipato alla ruota della fortuna. Davide, buongiorno e benvenuto. Buongiorno Nicoletti, buongiorno a tutti. Anche lei è un concorrente? Ma io veramente molto più umilmente di chi mi ha preceduto ho partecipato sia alla ruota della fortuna che a Vinca il migliore su canale 5, ma giusto per capire come funzionava in verità il sistema dei giochi, vedere quello che non si vede da... Allora Spadi, lei si prepari a darci o conferme o smentite. Rieccoci 800 24 anzi 800 24 00 24. Vi stiamo dando testimonianze inedite e assolutamente nuove su ciò che accade quando si vince un telequiz. C'è un istituto di ricerca e comunicazione per bene, che sono talmente per bene che ci hanno detto che telequiz nuociono gravemente alla rettitudine delle famiglie italiane. Noi ce ne facciamo un baffo, invece facciamo sentire quanto sono felici quelli che hanno vinto, come ad esempio Davide, che ha partecipato alla Ruota della Fortuna e a Vinca il migliore su canale 5. Davide, eccoci qua. Eccomi ancora. Quanto è mutato e peggiorato il suo stile di vita, la sua tenuta morale dopo aver partecipato a un telequiz? Ma assolutamente nulla, perché intanto ho solo ricevuto dei gettoni di presenza, perché non sono riuscito a diventare campione. Non ha vinto una mazza, quindi? No, un paio di gettoni, come diceva... Sempre d'oro? Sì, esattamente, che poi invece, essendo solo quello da 50 euro, ho a casa come ricordo della giornata. Quindi nemmeno un pediluvio ci ha fatto con i gettoni. Esattamente. Assolutamente niente, però è molto interessante secondo me vedere il rito che per quei tipi di telequiz che venivano registrati, in cui venivano registrate più di una puntata nel giorno, bisognava fare, quindi si era tutti in attesa di aspettare la seconda o la terza registrazione, mentre gli altri venivano scartati dal sistema del gioco. Quindi c'è una sorta di divisione dantesca fra i segati e quelli che rimanevano. Esatto. C'era la gente in coda che aspettava di entrare nella sala di macellazione, diciamo, per poi apparire quel quarto d'ora, 20 minuti durante la registrazione. Devono anche fingere lo scorrere del tempo, tipo, ci siamo visti ieri, magari hanno passato un quarto d'ora. Esatto, infatti... Vi cambiavate pure? Sì, esattamente, per la Ruota della Fortuna bisognava portare 3 cambi, perché si registravano 3 puntate al massimo, e poi la sarta decideva qual era quello più giusto, oppure aggiungeva qualche cosa. I vestiti erano del vostro, come si dice a Perugia. Esatto, esattamente. Quindi praticamente non vi davano niente, una giustatina no. Così. Esattamente. E chi era vestito da pezzente o da burino cosa facevano? Lo scartavano o gli davano un aiutino, gli prestavano una giacchetta di Gerry Scott? Prestavano camicie o giacche per essere più presentabili rispetto a quello che forse potevano essere. Le orrende giacchette di sartoria di televisione con il collo unto e con la forfora di quello che l'ha avuta prima, comunque uno si accontenta. Per fortuna infatti ho usato del mio, che è già stato meglio, insomma. Vabbè, allora lei è stato fra i fortunati che almeno è passato a qualche selezione. Esatto, anche perché anche il tutte le selezioni sono lunghe, perché io ho dovuto fare una selezione a Modena più un'altra, una in cui si venivano simulate appunto delle frasi da risolvere, più un'altra a Milano, se non ricordo, per poi essere invitato alla registrazione a Cologno Montese. Senta, Davide, tanto ormai lei è fuori e nessuno verrà a aspettarla sotto casa con un manganello. Ma c'era odore di taroccamento in questo, o perlomeno il gioco ormai si regge talmente sulla sua referenzialità che non ha bisogno di addomesticare nessun vincitore? Ma io, per le mie due esperienze, assolutamente non c'è nessun taroccamento, perché tra l'altro anche gli stessi concorrenti non si incontrano prima della trasmissione, quindi alla fine non ho visto connivenze tra la giuria, Mike Bongiorno in quanto presentatore e il campione di turno. Più che altro lì è quello che ti fa andare avanti è riuscire a rimanere un po' calmo davanti a quei riflettori che sono drammaticamente caldi. L'unico ricordo che ho è il calore che si aveva con un riflettore televisivo in faccia, perché è qualcosa di indescrivibile. Sì, perché voi siete carne da macello, quando ci va la diva o la fighetta pettinata mettono l'aria condizionata a palla, per i concorrenti del telequiz perché sprecare corrente, energia elettrica, si lessino pure. La soubrette che era con Mike Bongiorno allora, che non mi ricordo il nome, ma comunque era del tutto notabile, quindi anche lei pativa il caldo. Ah vabbè, allora evidentemente erate in un girone infernale, il caldo riscalda e quindi funzionava meglio. Grazie infinite Davide, passiamo a un'altra fortunata concorrente, Laura Sabbadini. Laura, buongiorno. Sì, salve, buongiorno. Io devo dire un piccolo segreto anche per dare... No, mi chiamo comunque Lara, non Laura. Ah Lara, chiedo scusa, lo so, Lara. Lara poi è un nome talmente importante che è veramente un delitto sbagliarlo. Scusami Lara, Lara Sabbadini. Allora, sia Lara che Davide, io l'ho arpionati ieri sera su Facebook, perché ormai la gran parte della carne umana che trasformo in voce radiofonica, che sentite a questo programma radiofonico, io me la vado a cercare a razzolare la sera. Lara me l'ha segnalato un amico di Facebook, mi ha detto c'è una mia amica che è bravissima, ha vinto, valla a cercare. Io l'ho cercata, ho chiesto il telefono, me l'ha dato subito, si è fidata ed eccola qua. Lara, tu a cosa hai giocato e cosa hai vinto? Allora, io ho giocato ad Affari Tuoi, che tra l'altro ho giocato il 6 ottobre, quindi pochissimo tempo fa, e ho vinto 100.000 euro. Con i pacchi, sono... praticamente. Con i pacchi, esatto, il gioco dei pacchi. 100.000 euro non è male. No, è bene, sono contentissima. Hai preso i gettoni anche te? No, almeno. Per adesso non ho ancora preso niente, però... Te li hanno promessi? No, ce li hanno promessi, speriamo che mi arrivino, no, scherzo. Ma hai un titolo, qualcosa? Ti è andato attraverso un bonifico bancario. Ah, ora, quindi non si usa più il gettone d'oro? No, almeno a noi hanno detto così, insomma, che sappia io, arriva un bonifico bancario, anche perché comunque abbiamo lasciato tutti i dati, abbiamo firmato. Sì, perché non è proprio un telequiz, è un altro tipo di programma. No, non è un telequiz, ecco. Questo è più che altro è a fortuna, quindi non... Però si vince sempre... Non ho meriti. Ma tu come fai? Era stato difficile diventare concorrente, partecipare? Ma, hai avuto l'aiutino? Come hai fatto? No, ma che aiutino? No, aiutini proprio non ho mai avuto in vita mia, assolutamente. No, semplicemente mi trovavo a casa perché avevo un problema di salute l'anno scorso, tra dicembre e gennaio, quindi non lavoravo. Io lavoro in un quotidiano, sono un'agente pubblicitaria. Uh-huh. Un quotidiano a Firenze, La Nazione. Che ne dici del termine comunicazione per bene? Comunicazione per bene. Sono quelli che dicono che i telequiz fanno male alla rettitudine morale degli italiani. Non sono propriamente d'accordo. Ora, magari un gioco come Affari Tuoi, ecco, tanto di cultura non c'è, è un gioco più che altro per divertirsi. Sì, ma non è che hai compromesso la tua virtù? No, ho compromesso assolutamente niente, anzi il giorno dopo che ho vinto ero a lavorare tranquillamente alle 9:30 di mattina, quindi... Ma ci sono sempre delle vestali che vogliono avere la patente di buoni dicendo la televisione è cattiva. La televisione è una schifezza, però non è giusto attribuire alla televisione tutte le scivolate verso il malcostume del nostro paese. Allora, assolutamente no. Hai partecipato, la tua esperienza è concorrente, cosa ti è rimasto impresso nella tua memoria, nella tua fantasia? La mia esperienza, ho avuto sicuramente molta fortuna perché mi sono iscritta, ti iscrivi praticamente lasciando un nome ad un centralino, una centralinista, nome, cognome, età, che lavoro fai, tutto quanto, se non che fatto tanto per fare, tanto detto non mi chiameranno mai. Poi, tra l'altro, la prima cosa a cui mi sono iscritta in vita mia, non ho mai partecipato a niente, non faccio giochi, non mi piace giocare, ma non, né a carte né a niente. Quindi, però ti hanno preso. Proprio, mi hanno preso, mi hanno chiamato una mattina a fine luglio dicendomi che ero stata selezionata per partecipare a questi provini, quindi ho detto va. Quante puntate hai fatto? ma alla fine veramente molto poche. Questa è stata l'altra fortuna, ho fatto 12 puntate. Ah, ti faccio la domanda finale, visto che siamo in chiusura, però sì, devi rispondermi seriamente. Sì. Al di là dei 100.000 euro, che sono un bel gruzzoletto, qual è stato il vero guadagno in immagine, in considerazione, in amicizia, affetto, amore, sensualità che hai ottenuto da questo passaggio? Francamente niente, non è stata forse probabilmente una cifra così alta da sollecitare gli animi di tutti quelli. Però che ti hanno visto, la gente non ti ha riconosciuto, certo, per strada. Certo, visto, sono stata contenta. Tra l'altro io abito, sono di Carpi e mi presentavo per l'Emilia Romagna e abito a Firenze, quindi sicuramente tutti i miei amici da una parte e dall'altra c'è stata... A Carpi ti hanno accolto con lo striscione e la banda? No, assolutamente no. È un motivo in più, ti ringrazio, ti saluto, ti faccio tornare tranquillamente al tuo lavoro, confortata anche da questo piccolo attimo di visibilità che ti ha dato la radio. In fondo avete visto il telequiz, ma con questo non proviamo nulla, come non provano nulla i sondaggi. Ahimè, abbiamo visto che il telequiz in realtà non ha compromesso per nulla la tenuta morale di tre italiani. Per gli altri non possiamo assolutamente dirlo. A domani. Lasciate un messaggio alla segreteria telefonica di Melog. 828 1111. Melog va in replica questa sera alle 22. Melog 2.0.